Così dicono di stare sotto, fare il botto, volare tutto. Qui non mi rappresenta neanche il tricolore, e quello che mi resta è combattere il malumore. Sul cielo sereno non trovo l'arcobaleno, mentre capisco e reagisco a chi somministra veleno. Non è semplice la vita con la paga da operaio, non è facile o pulita se non ha un fisso salario. Allerta sulla carta, siamo sempre tutti uguali, non importa gente storta che ingrassa come i maiali. Se tu vali oppure no, se lavori per un po', qui ci chiudono gli spazi proprio come in CSO. Il messaggio lo conto, per questo resto sconvolto, con una lacrima sul volto proprio come Piero. Qui si paga la piaga che piega nella corruzione, restano pochi resti di onesti come Falcone. Dentro sta dimensione la gente è solo fame e tocca, mentre chi comanda privatizza pure l'acqua. Qua lo stipendio di un parlamentare è alto rispetto a un muratore al suo sudore sull'asfalto. Chi siede al Parlamento vive in casa di cemento, intanto qui in aumento che i tetti fatti di amianto impongono un colore per il nome di un partito, mentre cercano fama più di Mister Obama. Ma il viola per me resta il mio colore preferito, sto con chi ora reclama la libertà che proclama, e non con chi sgama fottendoci in più di un casa, bussando usando il suo mestiere male come Bertolaso. Io non voto per il rosso, per il nero, per il verde, preferisco il viola, colore di queste merde. Così mi dicono di stare sotto, di fare il vuoto, volare tutto. Qui non mi rappresenta neanche il tricolore, e quello che mi resta è combattere il malumore. Troppi colori mescolati di getto, c'è confusione sopra questa tela. E se mi chiedi qual è il colore che ho scelto, mi rappresenta solamente il viola. Troppi colori mescolati di getto, c'è confusione sopra questa tela. E se mi chiedi qual è il colore che ho scelto, mi rappresenta solamente il viola. Condannano la mafia con la quale fanno accordi, gestiscono i tuoi soldi insieme a sti bastardi, e mentre che si uniscono segretamente inviano proventi che sottraggono a tutti i popoli sordi. Qui ne vediamo ormai di tutti i colori, vediamo neri malumori, rosso sangue di Giuliani, il verde dei leghisti, razzisti coi musulmani o con gli stessi italiani che dal nord sono fuori. Qua vedo troppi fotoni di tornaconti e favori tatuati sopra la pelle come fossero maori. Ma siamo messi male con 600 euro al metro, con la cassa integrazione tipo Termini Merese. E ancora non so del mio futuro che farò, se una casa comprerò o dormirò accanto un falò. Se sarò ancora un precario senza neanche il borderò, allora io colorerò Palazzo Chigi di Bordeaux. Lo so che adesso è bianco come i fiumi di coca, dentro i nastri dei politici drogati come Morgan. Sopra sto fango marrone che è sempre in voga, c'è troppa ipocrisia camuffata da mille slogan. Così mi dicono di stare sotto, di fare il voto, mollare tutto. Qui non mi rappresenta neanche il tricolore, e quello che mi resta è combattere il malumore. Troppi colori mescolati di getto, c'è confusione sopra questa tela. E se mi chiedi qual è il colore che ho scelto, mi rappresenta solamente il viola. Troppi colori